Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Il social rivoluziona le relazioni e gli affari e moltiplica le possibilità in Italia e all'estero. Ecco un'idea di social network all'università che era attiva all'estero e che viene portata in Italia da un giovanissimo che, caso esemplare da seguire, ha messo in piedi una SRL a un euro grazie alle nuove leggi che finalmente sono arrivate nel nostro paese in favore delle start-up. E la seconda è un'idea che dall'estero è sbarcata in Italia grazie a un'italiana che ha masticato bene il nuovo mondo del cambiamento dell'economia globale e che si rivolge alla YouTube Generation. Entrambe aiutano i nuovi talenti a crescere, oltre che crescere economicamente facendo incontrare domanda e offerta. DocCity, un social network didattico di studenti universitari e liceali, a crearlo è stato Riccardo Cleppo, 26 anni, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Il progetto nasce nel 2010 e ora punta ad espandersi, come racconta Riccardo Cleppo. Non è stato un giorno, è stato più che altro una conseguenza del mio percorso di studi a Torino, durante il quale ho sentito più o meno sempre la necessità di avere un sito pensato e studiato per lo studente. E da questa necessità ho appena terminato il percorso universitario, ho appunto deciso di creare una piattaforma per lo scambio di documenti. Da questa, in pochissimo tempo, abbiamo iniziato ad avere i primi iscritti, le prime visite, è iniziata a crescere. E pian piano, ovviamente, che cresceva, abbiamo aggiunto funzionalità e quindi dallo scambio di documenti abbiamo aggiunto la possibilità di scambiare domande e risposte, scrivere articoli sul blog o caricare dei video. E a un certo punto ci siamo chiesti come andare a interconnettere le funzionalità che stavamo creando. Volevate fare un sistema di quello che poi in realtà è l'esigenza da sempre di tutti gli studenti, scambiarsi gli appunti. Sì, esatto. Non ero soddisfatto di come altri siti già presenti sul mercato soddisfassero questa esigenza. Nel senso che io spessissimo mi trovavo a girare su Google e poi dove finivo, ma non avevo un punto di riferimento in rete. Ecco, e quando è stato il momento in cui avete reso un po' più sistematico appunto questa idea e chi vi ha aiutato a metterla in piedi? Appena ha iniziato ad avere traffico il sito, quello è stato il momento in cui ho capito che ne valeva la pena provare a farne qualcosa di più di un semplice divertimento. Gente che mi abbia aiutato ce n'è tantissima, nel senso che amici che ci hanno fornito gli appunti, piuttosto che ragazzi che soprattutto all'inizio, quando comunque non c'era ancora né traffico né utenza, hanno creduto nell'idea, l'hanno promossa e si sono spesi in prima persona per farla conoscere sia in rete sia personalmente. Fondamentalmente voi quanti anni avevate quando è nata l'idea? 24. Quindi eravate nel pieno dell'esigenza di quello che poi promuovevate. E capitale, sì. Diciamo istituzioni, incubator, università, qualcuno vi ha dato una mano un po' più forte? Da quel punto di vista lì abbiamo avuto la fortuna di riuscire a farcela senza praticamente investire cifre enormi. Abbiamo, diciamo, prediletto la strada di investire poco e vedere se l'idea funzionava. Una volta che l'idea è partita, abbiamo provato a fare domanda ad alcuni incubatori o alcuni concorsi di startup, non è andata bene, pazienza. E poi abbiamo trovato delle strade alternative. Ecco, quindi praticamente gli investitori istituzionali non li avete incontrati. Poi allora che cosa è successo nella vostra crescita? Nel senso, come avete fatto a farvi conoscere un po' di più, magari non solo a livello universitario e magari confrontandovi anche con esempi stranieri? Guarda, io penso che il punto su cui abbiamo sempre puntato è l'esperienza d'uso e la qualità del servizio. Dopodiché, ovviamente, la maggior parte del nostro traffico proviene da Google, quindi essendo un social network, cosa che non ho detto perché è nato come sito di condivisione, poi si è evoluto verso social network. Essendo un social network, i contenuti sono generati dagli studenti e questo significa che ci sono moltissimi contenuti. Questi contenuti pian piano vengono indicizzati sul motore di ricerca e questo va a creare traffico. Il modello di business, da che cosa volete guadagnare? Per ora stiamo raccogliendo soldi con la pubblicità. Dopodiché abbiamo appena lanciato una piattaforma su cui qualunque studente o in generale qualunque persona possa vendere i propri documenti, trattenendo delle percentuali molto vantaggiose. Abbiamo sviluppato questo sito che si chiama Doc for Sale, che ha proprio l'obiettivo di andare a offrire questa opportunità a tutti coloro che desiderano vendere i propri contenuti digitali in rete. Lo sviluppo di questa idea, voi come vi vedete in futuro? Sicuramente vogliamo continuare a migliorare l'esperienza d'uso, tant'è che abbiamo appena rilasciato la nuova grafica. Dopodiché vogliamo introdurre nuove funzionalità, sempre però rimanendo in un'ottica social, quindi piuttosto di essere noi a proporre qualcosa o comunque contenuti formativi ad altri studenti o ad altre persone, il nostro obiettivo è sviluppare una piattaforma che consenta agli studenti stessi di proporre contenuti informativi ad altri studenti. Crediamo che questo possa essere un valore aggiunto. E poi stiamo puntando molto sulla crescita internazionale all'estero, tant'è che il sito oggi è tradotto già in 7 lingue. Chi vi ha aiutato a farvi conoscere? L'Unione Industriali, i giovani oppure altri enti? Google è il nostro miglior amico, perché avendo molti contenuti dagli studenti, questo fa sì che ci siano moltissime pagine indicizzate e questo poi genera traffico, ma è abbastanza normale per siti come Doxity. Buzz My Video Network nasce dall'esperienza di Paola Marinone, co-founder and director, 34 anni, che ha trascorso gli ultimi 5 tra l'Europa e l'America lavorando per Google. Negli ultimi 2 anni è stato lanciato il partnership program di YouTube anche in Italia e si è occupata poi di business development a livello europeo. Grazie a questa esperienza Paola ha capito che mancava una realtà che aiutasse i talenti in nuovi format ad emergere e ha quindi ideato e creato Buzz My Videos Network. Sentiamo Paola Marinone. Sì, io ho avuto un'esperienza molto bella all'interno di Google e di YouTube, soprattutto gli ultimi 3 anni a YouTube a Dublino. Dopo ho deciso di prendere un anno sabbatico, per cui liberare la mente e non pensare al lavoro, ma semplicemente alle mie passioni, alla vita. A un certo punto mi sono resa conto poi però che tutta l'esperienza nata da YouTube in realtà stava chiedendo di evolversi, di crescere. E mi sono accorta che il mercato chiedeva una certa professionalità e conoscenza della piattaforma e delle opportunità a livello nazionale e internazionale. Diciamo che l'idea è nata naturalmente, è stata un'evoluzione naturale. Qual è l'idea che è nata? E poi parleremo del fatto di come è arrivata YouTube da italiana. Ecco, questa è anche una cosa importante. Probabilmente le due cose sono unite, no? Sì, l'idea è creare un network di produttori di contenuto, di filmmaker. Siamo una sorta di incubatore e acceleratore di talenti a livello nazionale e internazionale e supportiamo le aziende che vogliono investire nella piattaforma di YouTube e collaborare con i talenti della YouTube Generation. E la mia italianità sicuramente è stato un asset che mi ha fatta lavorare in Google e in YouTube, è sicuramente la conoscenza del mercato, che è un mercato importante, ma anche allo stesso tempo la possibilità di vedere a YouTube e a Google in generale che la tecnologia non ha frontiere è stato un asset che poi mi sono portata nel mio DNA e infatti l'azienda ha una natura internazionale e soprattutto ha un mercato internazionale, siamo presenti in oltre 100 paesi. Lei parla di noi, chi siete, quanti siete? Sì, noi siamo per il momento in 7, ma siamo in forte crescita, infatti abbiamo già 3 posizioni nuove sul sito aperte e ne apriremo a breve un altro numero abbondante, per cui stiamo crescendo molto e siamo un'azienda molto mista, cioè abbiamo una persona che viene dalla Turchia, una persona che viene dall'Irlanda, un'altra persona dall'Australia. Siamo un team completamente internazionale, questo rispecchia molto il nostro modo di essere, di vedere il mondo della tecnologia e l'opportunità di business. Ecco, siete rimasti collegati comunque con YouTube, ovviamente aiutate a utilizzare al meglio questo prezioso strumento e la cosa che vorremmo capire è che cosa invece ha aiutato voi, cioè a parte l'italianità, come diceva lei, che cos'è che l'ha aiutata e che cos'è che l'ha fatta arrivare, diciamo, a YouTube e poi anche a questa idea? Sì, noi siamo assolutamente in contatto con YouTube, è da dove nasciamo, perché noi fondamentalmente la piattaforma di riferimento per noi è YouTube stessa e siamo partner ufficiale di YouTube e lavoriamo con loro quotidianamente. Noi poi inoltre lavoriamo nel co-working space di Google che si chiama Campus London a Londra, in questo ambiente molto eterogeneo, molto tecnologico ovviamente, dove lavoriamo a stretto contatto e side by side, per cui con startup di tutti i tipi con cui scambiamo idee e nascono progetti. Questa è stata la leva, ecco, noi ci occupiamo, come di rado accade, di una startup che è nata all'estero, che sta già crescendo, anche per capire un po' le differenze tra Italia e l'estero, che cosa avete trovato là e che cosa vorreste trovare qua? Londra per noi è il mercato più avanzato a livello di online video e di tecnologia E la Silicon Roundabout, come la chiamano loro, di Wall Street e tutta la parte di East London, è un fermento unico, è molto, diciamo, quella che vogliono far diventare la Silicon Valley europea, per cui per noi era fondamentale essere in un mercato di natura internazionale, dove c'erano professionalità molto avanzate e di nazionalità molto diverse. Sicuramente l'Italia ha grosse opportunità di crescita anche su questo aspetto, perché il mondo dell'online video in Italia è in forte rivoluzione, infatti per noi è un mercato importante e lo guardiamo molto da vicino. Infatti l'ultima persona che abbiamo appena assunto è un sales manager che viene da Facebook e che è italiano. Parliamo di numeri e rimaniamo sul concreto. Fatturato e clienti vostri? Allora, clienti siamo oltre a 4.000 clienti in un anno di attività, per cui sono oltre 4.000 da oltre 100 paesi del mondo, di cui circa 800, poco più di 800 sono italiani. Per questo motivo noi continuiamo a investire, a assumere persone, soprattutto puntiamo su migliorare il servizio e creare un team sempre più forte ed eterogeneo per servire al meglio i nostri mercati. Come si utilizza Buzz My Videos? Per i produttori di contenuto, per cui per i talenti videomaker, basta andare sul nostro sito, ci si iscrive e la richiesta viene poi rivista dal nostro team, può essere accettata o meno a seconda di determinati criteri. Noi consideriamo che abbiamo ricevuto nell'ultimo trimestre, per cui da gennaio a marzo, 17.000 richieste, per cui sono in fortissima crescita le richieste per utilizzare i nostri servizi. E ora Be Social. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @VociPMIRadio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccole Imprese, al blog su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.